I lavori di domani di Anna Marino. Si può abitare smart e immaginare la propria casa, il proprio quartiere, che rispetti i criteri di inclusione sociale, sostenibilità ambientale ed economica, soluzioni tecnologiche, sia per la domotica, sia per gli spazi condivisi, interni all'aperto? Sì, grazie all'Envisioning Manager, che deve sapere scegliere le soluzioni più innovative a misura di casa desiderata, anche tecnologiche. Deve avere un bel ventaglio di competenze dalle tecniche a quelle creative. E qui abbiamo chi ci spiega come fa. Cristiano Rada Ellie, Chief Innovation Officer, ci spiega come si forma l'Envisioning Manager e chi è. Io sono Chief Innovation Officer di Planet Smart City, una società che progetta società e città smart, sia facendo realizzazioni per sviluppatori in Italia, sia anche realizzando in proprio in paesi ad alta crescita demografica, con l'obiettivo in particolare del social housing, quello viene chiamato affordable housing. Quindi già partiamo da competenze personali per formare altre figure professionali competenti, no? Abbiamo pensato di parlare dell'envisioning, dell'envisioning manager, perché trovo che sia una delle figure più belle e più innovative all'interno del panorama del real estate, in quanto al di là delle figure tradizionali, oggi abbiamo bisogno di riuscire a pensare le città del futuro che devono essere fatte non a misura dell'uomo del passato, ma invece ponendo quelle che sono le esigenze di oggi, di una maggiore condivisione degli spazi, creare attività per inclusione sociale, di coinvolgere le persone e di avere un substrato di tecnologia non come fine ultimo, ma come base per coinvolgere le persone e migliorare la qualità della vita. E per passare dal sogno alla realtà, diciamo, ci bisogno di una persona, una figura e una serie di figure che mettano in pratica, mettano a terra queste competenze. Chi è l'Envisioning Manager? Sì, infatti, l'Envisioning Manager è quella persona che, in base alla sua esperienza, alla sua capacità, raccoglie quelle che sono le esigenze del cliente e che in questo caso può essere lo sviluppatore o chi poi decidere di acquistare case nelle varie località, nei vari distretti, nei vari paesi nel mondo. Le esigenze espresse dalle persone sono diverse. Creare una realtà in Brasile è diverso che creare un distretto a Milano. Quindi quali competenze deve avere questo Envisioning Manager? Elaborare in base a quelle che sono competenze sicuramente di lato architetturale per poter mettere insieme le soluzioni proposte. Deve però avere una base o lavorare in un team che abbia competenze tecnologiche per usare il substrato di tecnologia necessaria, ed è anche importante un aspetto di collaborazione con persone che abbiano esperienza, cultura di aspetti sociali. Tecnologie in 3D, magari, ecco, Envisioner mi richiama la visione, quindi la vision deve avere appunto una visione del futuro, della casa del futuro. Voi come li formate? Il team che abbiamo è composto da persone di esperienza diversa, proprio perché è necessario riuscire ad avere delle competenze, delle conoscenze sempre più trasversali per poter soddisfare le esigenze delle persone. Quindi c'è sicuramente una maggioranza di architetti, ci sono ingegneri, ci sono sociologi, ci sono matematici, c'è anche qualche filosofo. Quando viene sviluppato un progetto, possano valutare tutte queste parti importanti per coinvolgere e migliorare la qualità della vita, e anche delle persone che abbiano esperienza di attività sociale nei vari distretti o con le persone. Quindi si parte davvero da una base, che è quella insomma solida di una laurea in architettura oppure una laurea specialistica, e poi si va avanti. Come? Ci sono giovani che sono appena usciti dall'università e ci sono invece persone che hanno formato esperienze già anche in altri studi di architettura per poi passare con noi, perché proprio è necessario procedere in questo modo. L'esperienza si fa lavorando e progettando soluzioni diverse anche per parti diverse del mondo o per parti diverse o quartieri diversi in Italia. E qui entra in gioco il Competence Center. Com'è? Il Competence Center raccoglie, per poter formulare un progetto nel suo complesso, ha sia la parte ovviamente di envisioning, che in qualche modo rende, come diceva lei, la parola stessa, la visione di quello che si vuole proporre, in modo che a chi viene proposta abbia una visualizzazione della realtà qualità sia interna che esterna degli spazi, del verde e di come la proposta soddisfi la sostenibilità ambientale e anche economica e proponga, come diciamo prima, degli spazi comuni, ma poi utilizza per far ciò ad esempio un'altra parte che è quella di ricerca e sviluppo, che ha il compito di ricercare a livello mondo quelli che sono le soluzioni più innovative in questo campo, cosicché chi poi fa una proposta specifica possa partire da soluzioni che già si stanno realizzando, da prodotti che si stanno realizzando, da servizi che si stanno realizzando in altre parti del mondo. Quindi la parte di R&D che sviluppa anche un configuratore elettronico, diciamo, per facilitare questo tipo di utilizzo dei dati, è sicuramente un altro elemento molto importante del Competence Center. Fanno aula oppure giocano sul campo, insomma, per realizzare dalla A alla Z questi progetti, insomma, di nuova generazione? Un po' tutte e due le cose, sicuramente. Quindi sicuramente diamo una grande importanza alla formazione anche esterna delle persone, poi c'è tanta ovviamente esperienza pratica nel fare i progetti. L'altro punto che aggiungo anche sempre nel Competence Center e che complementa questo è lo sviluppo di servizi digitali. Quindi stiamo sviluppando un'app che viene data in dotazione a chi poi viene ad abitare nei nostri distretti, in modo che tramite l'app si possa usufruire dei servizi condivisi, si possa avere tutta una serie di aspetti, ad esempio sul controllo dei consumi, che sono il primo elemento per poi ridurre davvero i consumi, si possa ad esempio interfacciarsi meglio con i commercianti di zona o con le altre realtà della zona. Abbiamo visto che è una figura molto complessa, insomma, per arrivarci bisogna mettere insieme parecchie competenze, lavorare in team, avere competenze tecniche, fare aula, competenze tecnologiche, è molto complesso arrivarci. La sua formazione per arrivare ad essere anche un formatore, passare la sua esperienza di base a queste nuove professioni, qual è? Arrivando dal mondo del digitale, quindi avendo passato gran parte della mia vita nel mondo del digitale e delle telecomunicazioni e poi affascinato da questa possibilità di collaborare per progettare le città del futuro. Tecnologia applicata alla casa vuol dire domotica, si usa anche per questo tipo di professioni? Domotica oggi ha cambiato un po' nome verso dispositivi o reti IoT e in realtà ci sono due aspetti. C'è l'aspetto di domotica che è quello dei servizi che possono essere dati all'interno della casa, ma poi è molto importante, proprio perché oggi le persone vivono molto in spazi sociali, quelli che sono i servizi che possono essere sviluppati grazie alle reti di IoT, di device IoT, anche all'aperto, quindi nelle piazze piuttosto che negli spazi condivisi, che a questo punto coinvolgono anche ad esempio i servizi di parcheggio, di mobilità, della gestione di eventi, per poter coinvolgere le comunità che vivono in questi distretti. Voi appunto li reclutate, li trovate in base ovviamente alla loro preparazione, ma quali caratteristiche devono avere principalmente e come possono rivolgersi per esempio a voi per questa formazione? Sicuramente possono rivolgersi a noi sul nostro sito, che è planetsmartcity.com, e la formazione è, diciamo, di variegata, nel senso che noi sicuramente collaboriamo anche con diverse università, il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, altre università, per avere anche, siamo disponibili, molto lieti se abbiamo dei neolaureati che vogliono entrare da noi, ma sicuramente abbiamo anche persone di formazione più elevata, quindi architetti che già lavoravano in altre realtà o persone che hanno esperienza di gestire realtà sociali in città o in distretti vari, che chiaramente sono molto utili nella progettazione e nella gestione poi di distretti nuovi. Quindi i lavori di domani non sono solo per i giovani e per i neolaureati, sono anche per chi vuole reinventarsi e magari aggiungere competenze. Ecco, lei anche ha una seniority e un'esperienza e quindi è anche un suggerimento a chi si trova a un momento della propria carriera e vuole aggiungere delle altre skill, è così? Assolutamente sì, anche perché è bello, trovo, almeno per la mia esperienza personale, a un certo punto rimettersi in gioco e cambiare le modalità di lavoro, entrare in ambienti diversi, cercare di dare il contributo su quello che si è imparato, si è studiato, si è, diciamo, sperimentato nella vita in ambiti nuovi, perché così si può dare un contributo importante anche ad altri in ambiti nuovi ed è molto stimolante per la persona. Allora facciamo un appello a chi per reinventarsi, a quale professionalità? Se siete architetti, se siete esperti di tecnologia, a chi? Ma architetti e ingegneri sicuramente. Questi sicuramente, però anche sulla parte di divisione sociale, di collaborazione sociale per disegnare le città del futuro. e quindi potete diventare Envisioning Manager da un anno all'altro? Assolutamente sì, con applicazione, apertura mentale e fantasia.